inglesi sono forti a fare dal giornalismo anche una cosa, diciamo, di basso livello. Mm-hmm. Io ho detto che ci sono certi giornali in Inghilterra che servono solo a pulire i vetri della macchina, quindi... Noi giocavamo con un assetto di 4-1, come voi sapete, 4-1. Come Marchionne mette un pullover, il Maglione Bruno. No, mette i Bermuda, insomma. Sì, sì. Tutti convocati di Carlo Genta. UCI will ban Lance Armstrong from cycling and UCI will strip him of his 7 Tour de France titles. Lance Armstrong has no place in cycling. Time Like This, tempi come questi, Foo Fighters, questa è una delle canzoni preferite di Lance Armstrong, come ha lui detto e scritto, era sempre nel suo iPod durante i Tour de France taroccati, Tour de France che non esistono più. E io qui con me per parlarne e per parlare con voi tutti convocati, 800 24 00 24, il numero verde, ho chiamato Cristiano Gatti, che quei Tour de France li ha visti tutti, ne ha visti anche molti altri, ha visto anche quelli di Indurain, inviato del giornale Penna Storica del nostro ciclismo. Ciao Cristiano, grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, io adesso dico una cosa forte: il ciclismo moderno è morto ieri con la voce di Pat McQuaid che abbiamo sentito. Lance Armstrong non esiste più, cancellato dalla storia del ciclismo, è morto dopo una agonia iniziata all'inizio degli anni 90, lo dicono 7 croci sull'albo d'oro della corsa più importante del mondo, albo d'oro che comunque negli ultimi anni è stato riscritto praticamente ad ogni stagione. Ieri Pat McQuaid ha detto che uno degli sportivi più grandi della storia era il diavolo in persona. Guarda, voglio sforzarmi di credere in una correzione, cioè voglio sforzarmi di pensare che sia morto il ciclismo passato, non il ciclismo moderno. Voglio sforzarmi di credere che il ciclismo moderno, cioè attuale, cioè di adesso, di oggi, sia un po' meglio, stia facendo sforzi immani per liberarsi dei suoi incubi, dei suoi fantasmi e dei suoi scheletri nell'armadio. Armstrong è servito all'intero sistema a costruire un'epopea, a costruire il grande ciclismo mondializzato che non si corre più e non piace più soltanto nella vecchia Europa, ma che diventa fenomeno mondiale, surriscalda l'America, arriva in Oceania, sbarca in Asia, tutto grazie a questa magica alchimia Armstrong Tour. L'idea che un uomo possa vincere 7 Tour de France consecutivamente è affascinante, non era mai riuscito nessuno, che ci riesca un cowboy americano che corre soltanto quella corsa perché la considera l'unico obiettivo meritevole di tanta fatica e di tanti sforzi. Ecco, questo è un romanzo che è piaciuto molto. Improvvisamente apprendiamo che era tutta una finzione, che era una fiction, non aveva nulla di reale ed è una cosa molto difficile da accettare. Resta inteso, quando lo vedevi tagliare il traguardo sui Campi Elisi, ci hai sempre creduto in Lance Armstrong? Sai, adesso è molto difficile dire no, però devo dire che tra noi che eravamo lì e che vedevamo quello che lui faceva sulle montagne, lui che prima, nella prima versione, quando era giovane, quando vinse un campionato del mondo a Oslo, non era mai andato in salita. Ecco, quando noi vedevamo Armstrong in salita con quelle frequenze pazzesche, creare quei distacchi mostruosi contro tutti, è chiaro che abituati o educati in un certo modo in quest'epoca, la diffidenza c'era. La diffidenza c'era, però Va anche detto che purtroppo vige un garantismo che è doveroso. Fino a prova contraria tutti vanno considerati innocenti, per cui la cosa incredibile è questa, che Armstrong ha subito centinaia di controlli nel corso di quegli anni e mai una volta è caduto in questi controlli, il che pone parecchi interrogativi sull'eterna lotta tra antidoping e doping. Sì, e pone anche tanti interrogativi su chi ha gestito la macchina del ciclismo, la macchina del Tour de France in quegli anni, che non era Pat McQuaid. Allora, continuiamo con le accuse, poi dico altre cose. Armstrong, allora lo sappiamo, era il capo di una banda di bari, di mafiosi, che usavano anche le minacce ai compagni, agli avversari, ai loro familiari, anche questo appurato. E non lo sapeva nessuno. Beh, per la verità... O lo sapevano tutti, o qualcuno lo sapeva. Per la verità, anche qui non bisogna dimenticare che c'è un signore italiano, casualmente, che si chiama Pippo Simeoni, che è un corridore che poi sentiamo. Che il sistema in qualche modo ha rigettato, ma che all'epoca, in tempi non sospetti, cioè adesso è troppo facile dire che tutti sapevano, all'epoca è andato contro l'intero sistema, denunciando, facendosi poi anche squalificare, confessando il doping e rivelando parecchi dettagli sul sistema, coinvolgendo il famoso e famigerato dottor Ferrari, che è poi alla base del doping di Armstrong e della sua squadra, e che ha subito, come tu dicevi, le minacce, le angherie del boss, perché una volta andò in fuga al Tour de France e Armstrong, per fargliela pagare, siccome aveva denunciato il suo medico, andò in quella fuga a dirgli: o tu torni indietro, torni nel gruppo e quindi non ti ritagli nessuno spazio al Tour de France, oppure io sto qui e questa fuga viene annullata. Ecco, Pippo Simeoni è uno al quale tutti un po' dovremmo restituire qualcosa, chiedere un po' di scuse e restituire sicuramente tanta dignità e tanto onore. It's a very quick start downhill, while back in the start house now, Lance Armstrong lines up. He'll depart 1 minute behind Chris Boardman, who is now down the road. So, three riders left to start. Well, two now, because Armstrong's gone. Right now I'm so surprised, but yet I'm so pleased and so happy for the team and for the staff and the other riders. It's of course it's a big story, but for the moment we're so pleased. He brings it to an end as a winner. The first ever stage he has won this year. The first bike race he has won this year. Armstrong wins the time trial and wins the Tour de France. And finally, the last thing I'll say for the people that don't believe in cycling, the cynics and the skeptics, I'm sorry for you. I'm sorry you can't dream big, and I'm sorry you don't believe in miracles. But this is one hell of a race. This is a great sporting event, and you should stand around and believe. You should believe in these athletes, and you should believe in these people. And I'm a fan of the Tour de France for as long as I live, and there are no secrets. This is a hard sporting event, and hard work wins it. So vive la Tour forever. Thank you. Allora, siamo partiti dalla telecronaca del prologo del Tour 99. Le Puy, vinto da Lance Armstrong, abbiamo sentito anche le sue parole, interruzione di frequenza, 7 croci nere sull'albo d'oro del Tour, e poi sul podio del 2005 Armstrong che dice, lo avete appena sentito, facilmente comprensibile, la gente che non crede nel ciclismo, i cinici, gli scettici, io mi sento triste per loro. Dovete credere in questi corridori. Io sono dispiaciuto che voi non crediate nei grandi sogni, sono dispiaciuto che voi non crediate nei miracoli. Ma sai, non bisogna stupirsi, perché i grandi artisti del malaffare sono artisti fino in fondo, per cui la menzogna, la bugia, la messa in scena fa parte del reato. Per cui se noi andassimo a rileggere tutte le interviste fatte da Armstrong in questi anni, è chiaro che ci si risterebbero i capelli. Come poi ne abbiamo sentite mica solo da lui, da no lui, Cristiano? Esatto, per cui non mi stupirei più di tanto. Chiaramente Armstrong non poteva andare a dire fate bene a non credere a chi vince, fate bene a non credere a noi che siamo eroi. Quindi da questo punto di vista non resto così scioccato. Ecco, devo dire che capisco anche tanta indignazione, questo surplus di indignazione che si respira in giro per il mondo nei suoi confronti, perché era un personaggio particolare, era quello che veniva dal cancro, era quello che si è battuto con una grande fondazione, una grande raccolta di fondi per chi sta davvero male, per cui in qualche modo aveva davvero le connotazioni di un angelo del bene, di un grande, di una grande icona, no? Del riscatto, per cui credo che davvero la musata è doppia, perché quando hai davanti il personaggio brutto, sporco e cattivo che viene sorpreso, mi rendo conto è inevitabile, è umano che il contraccolpo sia minore. In questo caso sì, avevamo l'angelo del bene che improvvisamente è brutto, sporco e cattivo, e a questo punto lo diventa ancora di più. Io adesso, prima di dare la parola agli ascoltatori che sono moltissimi, 800 24 00 24, li convochiamo apposta per parlare con loro, leggo una cosa che ha scritto Gianni Mura questa mattina che condivido. Bene, stabilito che Armstrong è il diavolo in persona, si può obiettare che nessun ciclista, nemmeno aiutato da Fantomas, Mandrake, Diabolik, Arsenio Lupin, sarebbe riuscito ad attuare il più sofisticato meccanismo di doping di ogni tempo se non avesse goduto di alte protezioni. Katie, la moglie, prosegue Gianni Mura, la moglie di LeMonda, ha dichiarato sotto giuramento che nel 2006 la Nike, sponsor principale di Armstrong, versò $500,000 a Hein Verbruggen come contributo alla lotta antidoping perché coprisse una provetta sospetta nel 99. Non sarebbe male approfondire questo argomento. Avesse ragione la signora LeMonda, l'attuale membro onorario del CIO Hein Verbruggen andrebbe sbattuto fuori a calci, e sarebbe anche interessante sapere chi informava col giusto anticipo la US Postal sugli arrivi dei prelevatori di sangue. Francesco, Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie della possibilità. Premetto che non avevo assolutamente letto questo articolo, ma c'era un articolo similare stamattina pubblicato sulla Stampa, in cui diceva che Armstrong aveva, tramite la sua fondazione, elargito un obolo, chiamiamolo così, di $100,000+ alla UCI, del cui presidente McQuaid adesso fa un po' l'indignato e quant'altro. Quindi il discorso è anche questo qui, fermo restando le responsabilità obiettive e oggettive di cui è fuori discussione, credo che bisogna mettersi un pochino in testa del fatto che era una pratica particolarmente diffusa non solo nel primo, nel secondo, nel terzo arrivato e via dicendo, ma credo anche scendendo la classifica. Oggi era stata riportata una sorta di ipotetica tabella in cui nei primi 10 arrivati praticamente sarebbero dovuti in alcune situazioni Cristiano andare Gatti a premiare. Lo sa benissimo. Oggi c'è una dichiarazione di John Fay, presidente dell'Agenzia Mondiale Antidoping, che dice: ai tempi di Lance Armstrong tutti si dopavano. Era un periodo in cui il doping faceva parte della cultura dominante del ciclismo, basta ascoltare le testimonianze dei compagni di squadra di Armstrong, che sono concordi nel sostenere che non si poteva essere competitivi senza l'uso di sostanze proibite. Ecco, Cri, aggiungo una cosa. Quello che, senza difendere Armstrong, che è indifendibile, però quello che mi dà molto fastidio, che non sopporto, è il modo in cui Armstrong, nel momento in cui è diventato uno qualunque, quindi non più un uomo molto potente e molto utile anche dal punto di vista economico, sia stato distrutto e divorato, coperto di fango o di altre cose, da chi si è arricchito con lui. Ma è chiarissimo, e qui infatti non bisogna limitarci a una generica censura. Io condivido pienamente quello che ha scritto Gianni Mura stamattina. È un pensiero ricorrente che qualsiasi persona intelligente che non vada avanti per slogan o con le fette di mortadella sugli occhi deve per forza sentire. Armstrong è stato Armstrong perché, come dicevi tu, ha fatto comodo ai potenti del ciclismo, per uno sviluppo del ciclismo ciclismo molto molto remunerativo. Però chi governava, chi stava al timone della nave, è chiaro che in qualche modo va considerato complice, connivente, non so come dire, sicuramente ha coperto il sistema che rendeva a tutti. Allora, quando Gianni Mura dice che Verbruggen, il presidente di quell'epoca, andrebbe, se fossero provate le accuse della moglie di LeMond, no? Andrebbe cacciato a calci dal CIO, dove occupa una poltrona non secondaria ma di membro onorario, quindi come una personalità di riferimento, di garanzia, no? Quanto Armstrong meriterebbe di non sedere più in quel posto? Mi sembra troppo facile anche la posizione dell'attuale presidente McQuaid, che è vero che non ha nulla a che fare con quell'epoca, perché la sua è una presidenza successiva. Però devo anche dire che arrivare ieri ineffabile in conferenza stampa a dire Armstrong non è più nessuno nel ciclismo, non deve avere più posto, i suoi tour non valgono più niente, forse non era la persona più indicata per dire queste cose, dato che lui viene da almeno un paio d'anni in cui ha fatto sostanzialmente una guerra, o comunque ha messo i bastoni tra le ruote all'inchiesta condotta americana dagli americani, screditandola o quantomeno delegittimandola, quantomeno raccontando che non aveva titolo per essere, sì, per andare avanti. E io mi chiedo come facciano, con quale faccia arrivino in conferenza stampa mondiale a dire certe cose, a ergersi adesso a travestirsi da giustizia. Quantomeno il silenzio, ecco, se non sono colpevoli almeno dovrebbero rispondere dell'omesso controllo, visto, sì, che ne rispondono, certo, anche i direttori, certo, dei giornali, certo, anche i presidenti del Luci dovrebbero rispondere di omesso controllo. Paolo Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ma io sono stupito dello sport, sono uno sportivo a livello amatoriale. Pratico il ciclismo, pratico la corsa, pratico altre forme di sport, e quando lo faccio per me stesso, lo faccio per spirito dello sport, mi sembrerebbe da stupidi usare delle pratiche che tra l'altro potrebbero essere anche nocive. Ma io quando assisto a un Tour de France, a un Giro d'Italia, o comunque a una gara atletica di alto livello, so benissimo che questo tipo di sport, che è spettacolo, dove c'è un giro di affari miliardario che coinvolge enti, sponsor, coinvolge lo stipendio di migliaia di persone, io so benissimo che quegli atleti sono dopati. Fermo restando questo, io ho una grande ammirazione per Armstrong, così come la ebbi per Pantani, come tutti i grandi dopati dello sport, perché sono stati comunque degli eroi che hanno riempito le nostre fantasie. Dispiace sapere che hanno assunto sostanze chimiche, ma parliamoci chiaro, oggi, non ieri, fino a ieri, come dire, punto a capo, come ha detto prima quel signore che lei ha citato, ha rovinato, era il ciclismo dopato. No, il ciclismo ad alto livello è dopato anche oggi, così come l'atletica, così come il calcio. Io ho l'impressione che purtroppo sia dopato anche quello a basso livello. Anzi, ne ho praticamente la certezza che sia dopato anche quello a basso livello, e in maniera molto più rischiosa e pericolosa per i ciclisti di basso livello. Un'altra delle canzoni presenti nell'iPod di Armstrong, lo sapevi? New York, New York, Cristiano Gatti, Ryan Adams. Sinceramente non conosco tutta la sua list. Non conosci tutta, però so che no, però è risaputo lui che anche negli allenamenti andasse al ritmo delle canzoni. Sì, sì. Della considerazione dell'ascoltatore di prima, che cosa dici? Ma si è, sa che è una io non ho bisogno di Luca da Pescara che mi scrive: confermo, si usano farmaci illeciti e non anche nel ciclismo giovanile, perché lo so. Ma è un discorso che sta viene molto prima e sta sopra il caso Armstrong, è la solita questione che ci si pone sempre. Il doping è talmente diffuso che forse andrebbe liberalizzato. Dobbiamo deciderci, può darsi che un giorno la società ci arrivi e a quel punto ci caveremo tutti i problemi. Allora, però finché ci sono delle regole, ecco, devo dire che però la cosa veramente allarmante è quello che è sottesa nei discorsi di questi signori. C'è l'idea che per andare in bicicletta serva appunto la bicicletta, servano le scarpe, serva il casco e serva la chimica. Questa è la cultura che è dentro i cervelli di chi ha fatto il ciclista da tanti e tanti anni, non arriva certo con Armstrong. È stata confermata da tutte le generazioni di ciclismo. Coppi e Bartoli ridevano quando parlavano della pastiglietta. Senza aver mai smentito questa cosa. C'è un messaggio, ricordo Coppi che rinfacciava a Bartali la bomba, ricordo sì. Il cannibale Eddie Merckx in lacrime dopo quella Milano Sanremo che gli fu tolta. Ma il doping è la moglie, l'amante, la tentazione di tutti gli sportivi. Dorando Petri, che tutti raccontiamo come un eroe stremato alla fatica sul traguardo delle Olimpiadi di Londra, arrivò in quello stato a pochi metri perché imbottito di stricnina, perché il primo doping di quei tempi era la stricnina. Sì. E poi arrivano gli stimolanti, arrivano le anfetamine, i mondiali di Germania e Ungheria, esatto, poi arrivano gli ormoni, arriva Ben Johnson e tutte queste cose, quindi non è che riveliamo nulla di scabroso, di inedito. Bisogna solo però porsi il problema dei limiti e fin dove si può arrivare. L'epoca dell'EPO, che sono degli anni 90, ha portato una generazione di ciclisti con grossissimi problemi al sistema arterioso, gente che ha dovuto correre in ospedale a operarsi perché la vena della coscia, la safena, mi pare, è otturata, perché il sangue è troppo duro, questi tassi di ematocrito così alti provocavano occlusioni o cedimenti delle arterie. Insomma, non è che si scherza, tantomeno dovrebbero scherzare quelli che alla domenica vanno a concorrere nelle Gran Fondo per arrivare 10 minuti prima dell'anno prima. Sì. Non si scherza sul doping, non è che possiamo dire ma sì, liberalizziamo e andiamo tutti con la chimica. Poi facciamo questo discorso che ci porta a due estremi: liberalizziamo oppure inaspriamo le pene in maniera draconiana. Però prima ti leggo un'agenzia uscita ora. Se Merckx si è sentito preso in giro da Armstrong, un altro grande campione del passato che può vantare 5 vittorie al Tour de France, Miguel Indurain, crede ancora nell'innocenza del texano. Credo sia innocente, ha superato tutti i controlli e ha anche vinto tutti i processi cui è stato sottoposto, ha detto Indurain. È strano che tutto il procedimento sia basato solo su testimonianze, le regole ci sono e sono chiare, ma sembra che ora siano cambiate. Mi stupisce, ha concluso, che un combattente come Armstrong non si sia opposto a tutto questo e continui a restare inerte. Penso comunque che farà appello, che tenterà di dimostrare che ha lavorato bene durante tutta la sua carriera. Queste sono parole di Miguel Indurain. Io invece voglio farvi sentire, abbiamo parlato prima, l'intervista realizzata da Dario Ricci con il primo grande vero accusatore di Armstrong, cioè Filippo Simeoni. Sentiamolo. Ma penso che sia un atto dovuto, un passaggio che bisognava fare per ridare credibilità al ciclismo, perché purtroppo quell'era l'era Armstrong è stata un dramma, perché purtroppo dal dossier che è uscito fuori dall'USADA le prove sono inconfutabili. In quegli anni in molti sapevano come andavano le cose, però purtroppo chi ha gestito il ciclismo non è riuscito a curare questo male. L'episodio del Tour de France del 2004 penso che sia stato inequivocabile, è stato un episodio brutto che doveva essere punito in maniera forte dall'Unione Ciclistica Internazionale, però purtroppo evidentemente stava bene così, perché Ben Armstrong era intoccabile e adesso anche se a distanza di anni credo che siamo di fronte a un evento storico, un evento molto importante che penso servirà per ridare impulso al ciclismo, cercando di farlo ripartire con più credibilità. Tra l'altro, Filippo, vale la pena ricordare che tu hai pagato in prima persona in due occasioni di fatto i tuoi errori, perché nel 2003 confessasti di aver comprato sostanze dopanti da Michele Ferrari, quello che era il tuo medico e il medico al centro dell'inchiesta padovana, e che è il medico che ha seguito anche Lance Armstrong. E come ricordavi, poi nel 2004 Lance ti riacciuffò durante una tappa del Tour de France in cui tu eri andato in fuga, quasi a volerti punire per quella testimonianza, no? E tra l'altro hai pagato poi successivamente, permettimi di dirlo, quando venisti escluso, pur campione d'Italia, dal Giro d'Italia che per la prima volta andava ad accogliere Armstrong. Quello sì che sembrò uno sgarro belle buono, no? Sì, purtroppo sono stati degli episodi brutti che hanno condizionato in maniera negativa la mia carriera sportiva, e quindi quello, il primo è quello di aver fatto il dovere di cittadino onesto, che davanti a un giudice mi sono assunto le mie responsabilità, ho detto semplicemente la verità di come andavano i fatti in quegli anni. Il Tour de France del 2004 è stato veramente umiliante, un gesto inqualificabile che, come ripeto, l'UCI doveva intervenire in maniera decisa, cosa che non è stata fatta. E poi non dimentichiamoci, insomma, la cosa più brutta è stata l'esclusione del Giro d'Italia con la maglia di campione italiano, che penso quello è stato l'episodio che mi ha fatto abbandonare il ciclismo con un certo dolore, mi ha fatto un po' disinnamorare del ciclismo, perché ne sono uscito molto umiliato e ho cercato di fare di tutto per mettere in evidenza questa cosa, anche riconsegnando la maglia tricolore per stimolare le coscienze delle persone che credevano nei valori nazionali, però purtroppo non è servito a niente. E niente, quindi sono rimasto fuori dal Giro d'Italia, un evento importante e impensabile per qualsiasi paese. Allora, Cristiano Gatti, ti voglio chiedere che cosa pensi di queste parole di Simeone e di quelle di Miguel Indurain. Guarda, quelle di Simeone, l'ho detto prima, sono rispettabili, meritano veramente il risarcimento di dignità e di onore che non sempre sono stati riconosciuti a Pippo. Pippo veramente ha pagato sulla propria pelle il suo pentimento, il suo ravvedimento e le sue denunce. L'abbiamo trasformato veramente in una vittima del sistema. Quando lui parla di intoccabilità, è vero che Armstrong era un intoccabile. Lo stesso episodio in Italia di Armstrong che torna a correre al Giro d'Italia costa a Simeone e alla sua squadra, che deteneva la maglia di campione italiano, l'esclusione, perché una delle condizioni imposte da Armstrong era non avere tra i piedi Simeone. Questa è storia, quindi io mi fermerei qui, perché a Simeoni è molto lunga la lista di chi dovrebbe andare a chiedere scusa. Sì. Quanto a Indurain, c'è tutto un florilegio adesso di ex corridori, ex compagni, che in qualche modo continuano a stare dalla parte di Armstrong, continuano a credere alla sua, però alla sua innocenza. Indurain. Però non dimentichiamo, Carlo, che sono tutti corridori che hanno fatto parte di un sistema, sono tutti corridori che comunque hanno vissuto nell'epoca d'oro del doping. Chi risultando positivo ai controlli, chi scampandoli per fortuna o per abilità, comunque tutti coinvolti in un sistema, per cui è anche abbastanza logico che adesso cerchino in qualche modo di salvare il salvabile. Ma tu fai riferimento anche a Indurain? Sì, guarda, io faccio riferimento a tutti quelli che hanno corso dal 1990 al 1000 a 3-4 anni fa, quando le penne sono arrivati i nuovi strumenti antidoping, le nuove normative, le nuove pene. Io considero poco attendibili poco attendibili le parole di chi ha fatto parte di quel mondo in quel periodo. Noi abbiamo anche crocefisso Pantani. Pantani se l'è andata a cercare, Pantani sarà colpevolissimo e tutto quanto, non stiamo a riaprire tutta la storia, però Pantani era anche egli la figura di punta di un sistema. Non ricordiamoci che il giorno maledetto di Madonna di Campiglio, quando frana il mito di Pantani, alcuni suoi avversari si salvarono per lo 0,01%, quindi per un puro colpo di fortuna. Questo non, perché se Pantani aveva l'ematocrito a 52, loro l'avevano a 59, più con l'abbuono scendevano, sì, a 49,9. Questo, sì, non vuol dire che Pantani fosse l'unico sporco e gli altri tutti santi. Ecco, questo per capire, bisogna veramente parlare di un'epoca e di un sistema, perché altrimenti andiamo fuori strada. Volesse il cielo che fossero casi isolati, fossero dei dannati che una volta emarginati non fanno più danni e il sistema resta integro. Antonio, provincia di Latina, lo so che c'è, che tutti convocati, ma ho fretta, lo so, ma dai, ho fretta. Antonio, provincia di Latina. Sì, salve, buongiorno. No, due domande veloci. La prima è, dato per assodato che il sistema Armstrong era un sistema curato da più persone, non da lui da solo, insomma, non vedo indagini per quanto riguarda gli organizzatori del Tour de France, che per 7 anni nessuno ha visto o comunque non ha voluto vedere quello che succedeva. Ebbene, sì. Poi la seconda domanda, forse è una prerogativa tutta nostra italiana: quando è successo quello che è successo con il grande Marco Pantani, è stato trattato nel peggior modo possibile, cosa che non ho visto con Armstrong. Per alcuni addirittura potrebbe diventare quasi un eroe. Su questo qualche dubbio. Adesso non esageriamo con gli estremi. Spero, però ho visto questa grande diversità di trattamento. L'ultima cosa e poi veloce, insomma, perché siamo in tanti. Dico, avevo più stima di Indurain dopo l'ultima dichiarazione che ha fatto. Grazie comunque. Grazie. Tiziano, Milano, poi rispondiamo insieme. Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Grazie, solo una considerazione. Io non mi occupo di sport, sono un cittadino qualunque che nella vita ha tanti interessi. Proprio per questo mi sono sentito in dovere di intervenire, perché al di là del caso sportivo, noi stiamo criminalizzando con dei titoli che francamente non posso accettare, tipo Angelo del Male oppure doppia facciata di uno sportivo, dimenticandoci che tanta gente, sull'esempio di Lance Armstrong, sta cercando di guarire dal cancro. Questo è stato un esempio umano mostruoso. E se comunque Armstrong fosse anche un diavolo, come viene dipinto in queste ore, io non riesco a immaginarmi un diavolo che investa così tanti soldi in una fondazione per la ricerca sul cancro. Non dimentichiamoci di questo. Ha ragione. Ritengo che Armstrong non sia colpevole, però io ripeto, sono un cittadino qualunque, ma non posso, tra tutti gli sportivi che hanno fatto la storia dei nostri tempi, quello che lascerà il segno a livello umano forse è proprio Armstrong, che stiamo così tanto criminalizzando. Lei ha ragione, ma questa è una delle facce di questa stranissima e gigantesca storia. Andrea da Bologna, poi rispondiamo. Andrea? Sì. Dica. No, io mi dissocio dall'utente precedente. Dico che se anche ha fatto del bene con i soldi guadagnati, però la lealtà va comunque rispettata. Il doping è duro da sconfiggere. Io ho visto il Giro de France quest'anno, non so se l'avete visto anche voi, ma io nel primo e nel secondo non ho visto delle cose belle, nel senso che quando uno vince un Tour de France con una gamba sola e gli altri dietro arrancano tutti e 200, qualcosa secondo me negli organizzatori, magari è coperto bene, però qualcosa deve una lampadina deve accendersi, non 10 anni dopo. Io condanno Armstrong e per quel che ha fatto, ma purtroppo si arriva sempre tardi, ecco, a condannare queste cose. Non so cosa ne pensate voi. Risposta cumulativa, Cristiano Gatti. Ma sul fatto che all'epoca Armstrong abbia potuto fare quello che ha fatto e soltanto adesso salti fuori, c'è una spiegazione che è accettabile, nel senso che adesso ci sono dei metodi di individuazione dell'EPO sintetica nel sangue che allora non c'erano, quindi questo in qualche modo è la spiegazione logica. Che poi allora comunque nessuno avesse una gran voglia di pescare Armstrong, questo è altrettanto vero. Ecco, un'altra cosa cosa, il bene che ha fatto Armstrong, rispettabilissimo, meritevolissimo, e nessuno può metterlo in discussione. Bisogna soltanto prendere atto di una storia eterna, che l'uomo è fatto di bene e di male. Provenzano, quando fu preso nel suo covo, aveva i santini e gli altarini della Madonna, quindi cosa dobbiamo dire, che Provenzano era un uomo molto pio e devoto. Il problema è che ciascuno risponde dei suoi atti, sia di quelli belli sia di quelli brutti. Di Armstrong noi adesso stiamo parlando come di un grande campione che ha tradito. I suoi meriti umani nessuno li discute, restano, per fortuna faranno ancora, produrranno effetti benefici, però dobbiamo limitarci a parlare dell'Armstrong sportivo, perché nessuno è autorizzato a emettere giudizi globali se non il nostro signore, quando sarà il momento. Almeno io così la penso. E non mi stupisco che un uomo possa fare tanto bene e tanto male, perché credo che sia proprio nella natura nostra. Senti, abbiamo due minuti, quindi la risposta deve essere per forza brusca e secca. Allora, abbiamo due estremi: liberalizzazione del doping per i professionisti, radiazione per chi viene pescato anche la prima volta dopato. Da che parte stai? Guarda, credo che gli effetti di una corsa sfrenata del doping che si produrrebbero con la liberalizzazione sarebbero veramente terrificanti. Per cui sono portato a credere che si debbano stabilire dei limiti e delle regole. Però sono anche dell'idea che siamo in un clima di emergenza, come furono gli anni del terrorismo, per cui servano anche delle leggi d'emergenza, un po' brutali, persino truculente, però ci sono dei momenti storici in cui non bisogna esitare. Io sono... la proposta concreta che faccio io è che si potrebbe stabilire un'amnistia per chiudere il passato, che altrimenti continua a tornare con mille casi, mille storie, mille rivelazioni. Un'amnistia al 31/12/2011 potremmo stabilire l'anno scorso, per cui chiudiamo col passato. Sì. La contropartita è che nel futuro ci saranno pene severissime fino alla radiazione, alla prima caduta all'antidoping. Cristiano Gatti, ti ringrazio. Stasera c'è anche Juventus Nordjylland, ci siamo dimenticati di parlarne. È Armstrong che sovrasta la Juventus. Miseria. Vabbè, allora, ma tanto tutto quello che sapevo del Nordjylland era l'inno, quindi ve lo regalo, salutandovi, ringraziando Cristiano Gatti, Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Poi naturalmente ne parliamo domani alle 2. Se uno mantiene sempre lo stesso profilo, il famoso passo da montagna, non deve né correre né andare piano, sempre lo stesso passo.